Ci interessava non parlare soltanto di libri di narrativa o saggistica, ma di parlare di critica per una serie di ragioni, anche legabili al tema più ampio della letteratura sociale. Perché la critica? Io mi sono trovato a notare in questi anni, ho preso coscienza da poco, della importanza di alcune funzioni della critica letteraria, ce ne sono molte, rispetto a una degenerazione effettiva che c'è stata su più piani nel campo editoriale, prima ancora che letterario. Sono accadute una serie di cose. Una è il fatto che alla crisi l'editoria e in particolare la distribuzione ha reagito con la sovrapproduzione e con l'accelerazione dei tempi del mercato. Di conseguenza escono moltissimi libri perché bisogna conservare lo scaffale, escono moltissime novità, durano 3 mesi sullo scaffale con una selezione darwiniana ferocissima e a volte basata su funzioni del tutto casuali, e solo i libri che reggono, cioè che vendono almeno un tot, reggono nei mesi successivi o per anni successivi, altri scompaiono subito e vengono immediatamente sostituiti da novità. Chiaramente già in questo contesto c'è un problema. Cose buone possono andare perdute prima ancora che il lettore, anche avveduto, se ne renda conto. E a questo punto la funzione di indirizzo della critica, quella di segnalare i libri significativi e farlo magari in tempo, oppure farlo a posteriori in modo che si possano riscoprire determinati testi, diventa qualcosa di assolutamente rilevante. E noi, fra le varie iniziative che abbiamo fatto con l'Indiscreto, abbiamo ricreato queste classifiche di qualità, e io non ho potuto fare a meno di notare che nella scorsa edizione di febbraio la giuria fatta da critici, librai, lettori, blogger e quant'altro, e autori, ha segnalato in top 10, addirittura c'erano due recuperi, il Pantarei di Ezio Sinigaglia e Ricrescita di Sergio Nelli, due libri usciti non moltissimo tempo fa che oggi sono stati riproposti e stanno ritrovando una fortuna molto superiore a quella che avevano avuto in origine, e quelli erano dei libri che erano finiti completamente sommersi. In queste classifiche c'è un recupero, ma molto diverso nella sua storia, perché si parla di Stelio Mattioni, che uscì per Adelphi ma negli anni 60 e che oggi è riproposto da Clicquot. Però comunque l'emergere di questa volontà di recuperare libri sommersi anzitempo è un ulteriore segnale, io credo, della eccessiva velocità presa dal mercato editoriale. Poi c'è un'altra questione. Il mondo della critica letteraria si sta mutando perché stanno mutando le piattaforme. Io ho fatto un'inchiesta sulla critica perché mi interessava testarne lo stato, fare una sorta di grande mappatura, anche vedere cosa avrebbero risposto i vari critici. Era un'inchiesta che aveva forse come difetto quello di interpellarne troppi, quindi alla fine è venuto un affresco spropositato, che però è sempre interessante andare a ricontrollare, a disegnare delle isole. In questa situazione, nella nostra inchiesta sulla critica, è venuto fuori che nei cataloghi delle grandi case editrici tendenzialmente non ci sono più libri di critica letteraria, è diventata un'eccezione. Nei giornali lo spazio si è ridotto, non si è solo ridotto lo spazio dedicato alla critica nei giornali, si sono anche ridotti gli articoli a causa di questi restyling continui. Io l'ho visto proprio in diretta scrivendo sul Corriere della Sera. E prima un pezzo medio ti davano 5.400 battute, poi sono diventate 4.800, poi sono diventate 3.000 a causa di queste barre bianche o di questi disegni completamente privi di utilità che vengono messi, immaginandosi un ipotetico lettore che ha bisogno di aria e di contenuti brevi. Questo però fa sì che sia molto difficile anche per un critico molto bravo scrivere qualcosa di sensato in 3.000 battute su un libro, perché sono poche. E quindi sono accadute alcune cose. E una parte della critica si è spostata online, oppure online vengono pubblicate le versioni lunghe di quei pezzi brevi che appaiono sui giornali. E però questo cambia la fruizione, cambia la natura del dibattito critico, e anche questo è qualcosa su cui probabilmente vale la pena riflettere, perché siamo di fronte a un'altra questione, un progressivo scomparire dei giornali cartacei che finora erano il luogo principe e quindi la necessità di farsi delle domande rispetto a una critica online che ha un grande limite, quello di essere gratis, cioè nessuno ti paga per fare quel pezzo sulle parole e le cose o su Mimet Moralia, tant'è che quando lo fai, di solito queste riviste si basano o sul riprendere pezzi scritti originariamente su giornali cartacei paganti, oppure sono pezzi che sono ampi e articolati perché chi lo ha scritto in realtà è un ricercatore che si sta occupando di quello e di solito quel pezzo è un lacerto del suo studio che fa per l'università. Queste sono tutte cose che in qualche modo cambiano e virano i contenuti. Poi c'era un fatto puramente personale, si potrebbe dire. Io non ero un grande lettore di critica letteraria, però l'anno scorso per me davvero due dei libri italiani più significativi e che mi erano piaciuti di più erano stati proprio Biologia della letteratura di Cassadei, che è assente e manda le sue scuse alla polveriera, e La letteratura circostante di Simonetti, a cui si aggiunge recentissima uscita un'antologia curata da Raffaello Palumbo Mosca, La realtà rappresentata, in cui concorrono, credo, 20 autori in 21 articoli, e in cui si trattano molti temi anche eterogenei della nostra narrativa. È come se forse chi scrive e segue la letteratura inizia a sentire un bisogno di fare ordine, di fermarsi, proprio perché uno scrittore, almeno nel mio caso, è come se avessi scoperto, da quando ho cominciato a scrivere professionalmente, di essere, senza rendermene conto, su un'onda, su un vortice che andava velocissimo. E quindi ogni tanto fermarsi a fare il punto e anche a guardare indietro credo sia rilevante. E quindi diciamo che Simonetti e Palumbo Mosca sono qui proprio perché erano fra i critici che avevano partecipato a questa inchiesta e sono gli autori di questi libri. Poi abbiamo Rialti, che qua dentro non ha bisogno di presentazioni, e ora che si diceva prima, ora che Raul Bruni è emigrato in Polonia, lo possiamo sempre dire il miglior critico di Firenze, senza dover dire ogni volta assieme a Raul Bruni, che la cui attività critica però parte da un'altra direzione, perché Rialti si è occupato primariamente, oggi è un recensore attivissimo del Foglio sulla narrativa contemporanea, ma lui ha cominciato sul fantasy, con tutta una serie di problemi, perché il fantasy è stato per anni, anzi per decenni, genere negletto, genere secondario, genere addirittura in alcune fasi associato all'estrema destra, genere di cui non si poteva parlare in certuni luoghi della critica. Però oggi sta succedendo qualcos'altro, c'è una congiuntura che porta molta più literary fiction a ibridarsi con dispositivi e modalità narrativi tipici della speculative fiction, sia essa l'horror, il fantasy, la fantascienza, la distopia, e quindi non si può più fare a meno anche di quell'expertise. Francesca Matteoni, infine, last but not least, redattrice di Nazione Indiana da tempo immemore, e Nazione Indiana è stata la prima importante rivista letteraria online, che ha ospitato all'inizio anche un pool di quelli che erano in quel momento i maggiori scrittori italiani. Poi ci fu uno scisma e venne creato il primo amore, perché una parte della redazione non si riconosceva più in Nazione Indiana e quindi sentiva il bisogno di fondare una rivista identica. Però Nazione Indiana ha segnato proprio quel primo passaggio, quel primo momento in cui ci si è resi conto che online ci sarebbero potuti essere degli spazi di dibattito culturale e letterario. Dunque, io parto nel modo più aperto possibile, visto che qua i moderatori si sono tutti fatti indietro e si sono ritrasformati in critici. In teoria voi due dovevate moderare, gli altri due invece vedo che preferite sedere assieme ai critici e già vedo che vi sta apparendo un'aura beniaminiana di critici. E no, io parto dalla più generica delle domande. Siamo al Festival della Letteratura Sociale, ci si è posto in questi giorni il problema del cosa leggere, cosa spingere, come muoversi in quanto operatori della cultura all'interno di un panorama letterario sempre più variegato e sempre più veloce e sempre forse più scollato fra industria culturale e industria editoriale. Proprio con Simonetti poco fa parlavamo del mid-cult, oggi un'altra tendenza che forse la critica può aiutarci a combattere della grande editoria è quella: una volta si cercava di vendere i libri belli, oggi si cerca di far credere che siano belli i libri che vendono. Ecco, questo meccanismo è un trucchetto che può funzionare, spesso ha funzionato, ma sul lungo termine può danneggiare l'ecosistema. Ecco, io partirei da qua. Come vediamo questo ecosistema, lo stato della letteratura circostante e soprattutto la critica può effettivamente, come io da ottimista spero e ritengo, avere un'influenza rispetto a queste storture o no, oppure deve fare anche tutt'altro? Sì, dunque, volevo innanzitutto salutarvi, sono molto contento di fare questa cosa qui, posto che non conoscevo, che mi sembra molto bello e quindi sono contento di partecipare a un incontro che in realtà solleva molti temi grandi. Proviamo a dare qualche indicazione. Diciamo subito che la situazione in realtà non è delle migliori dal mio punto di vista, perché io personalmente critico, non lo so, insomma, però mi trovo un po' in difficoltà. Da qualche anno sostanzialmente mi capita di recensire con una certa sistematicità le nuove uscite di letteratura italiana, di narrativa e di poesia italiana, ed è un esercizio che insomma mi trovo un po' in difficoltà, perché non ho l'impressione, ecco, per dire la prima cosa, non ho l'impressione che la critica letteraria in questo momento abbia un impatto molto grande sulla società italiana. Non so se per altri lo stesso, per me è così. Quindi bisogna innanzitutto recuperare un po' forse il senso di questa attività, che è un'attività storica, nel senso che si è sempre fatta, però nel frattempo è molto cambiata la società letteraria italiana, è molto cambiata la letteratura italiana, in realtà in generale è cambiata, no, la cultura letteraria in Occidente. Una volta la critica letteraria era fatta da persone molto specializzate, addetti ai lavori, che formavano una società letteraria ristretta, che parlava a un numero di lettori che non era più grande di quello di adesso. Però era molto autorevole, quindi critici molto qualificati e molto autorevoli, per cui se Montale su Corriere della Sera diceva che un libro era bello, la gente, non la gente, ma insomma il pubblico della letteratura, che era comunque un pubblico ridotto, andava a leggere questo libro. La parola di Montale era molto autorevole, molto ascoltata, e di solito ci prendeva anche, diciamo la verità, Montale, insomma. Quello che succede oggi invece è che il pubblico dei lettori non è contratto, però la parola invece della critica letteraria è molto meno ascoltata. Questo credo che si possa dire, non credo che sia solo una mia percezione. Io, per esempio, in questi 3-4 anni che faccio questo lavoro, solo una volta ho avuto l'impressione di aver toccato un filo scoperto, per cui ho preso la scossa. Tutte le altre volte non ho avuto nessun riscontro. O quasi. Naturalmente, se parli bene di uno scrittore, magari lo scrittore ti chiama, se parli male di uno scrittore ti scrive per dire che sei uno stronzo, però io sto parlando non della reazione dei singoli autori o di pochi addetti ai lavori, ma di una vera reazione della società letteraria o ancora meglio del pubblico. Questo non succede quasi mai oggi. Mentre una volta, appunto, l'impressione è che la società letteraria ristretta, elitaria, super specializzata, desse dei pareri autorevoli che avevano un impatto molto forte sui lettori, sulla comunità dei lettori. Cosa è successo? Perché questa perdita di voltaggio? Secondo me due cose. Da un lato, è successo che la letteratura è molto più ai margini del sistema della cultura. Fino a qualche decennio fa, anche grazie alla scuola e all'università, si accettava l'idea che la letteratura fosse un luogo artistico in cui succedevano delle cose importanti. E la parola degli scrittori, non solo quella dei critici, era una parola che pesava molto. Montale era molto ascoltato come critico, ma era molto ascoltato anche come poeta. I lettori di poesia erano pochissimi, come sono tuttora pochissimi. Però Pasolini scrive su Corriere della Sera, Montale scrive su Corriere della Sera, Fortini scrive su Corriere della Sera o su Sole 24 Ore, hanno una parola che conta, scrivono delle poesie che vengono lette, insomma il loro parere conta. Quindi da un lato mi pare che proprio la letteratura si sia un po' messa ai margini del sistema della cultura. Oggi ci interessa magari di più, o interessa a molte persone, magari il parere di un regista, il parere di uno showrunner, il parere di un poeta, meno ascoltato di quello che sia oggi il parere di un rockstar o di un regista cinematografico o di un fumettista. La parola di Zero Calcare oggi è più ascoltata della parola di un poeta che, non so, Umberto Fiori, poniamo. Ecco. Questa è una cosa, quindi la letteratura si è un po' spostata, la poesia si è un po' spostata ai margini, la narrativa meno, ma insomma la letteratura nel complesso mi sembra più marginale nel sistema della cultura. E poi soprattutto è cambiata molto la società letteraria stessa, nel senso che mi sembra molto sgretolata rispetto a quella che era la società letteraria novecentesca ristretta. Nei giornali di fatto chi parla di letteratura spesso non è uno specialista di letteratura, ma è una persona famosa, a qualche titolo, a volte per motivi culturali, a volte neanche per motivi culturali, a cui viene chiesto dalla redazione, dalla direzione di dare un parere, perché è famosa, non perché si intenda particolarmente di poesia. Con alcune anche spostamenti, non so, mi ricordo questo primo numero di Robinson quando uscì, in cui che si apriva con un articolo sulla poesia della Zimborska, in generale sulla poesia, che era però affidato a Saviano, che non è uno che magari di poesia ne sappia particolarmente tanto, a dire la verità, no? Ecco. Sì, sì, vabbè. Però per dire, ma adesso questa non è neanche una critica a Saviano, no? Io sto dicendo semplicemente che mentre la critica letteraria di una volta era molto specialistica e competente, adesso è una critica che non è più una critica particolarmente spesso esperta e competente di letteratura, è una critica di persone famose che a volte parlano di letteratura e poi soprattutto spesso non parla proprio di letteratura. Diceva Vanni questa cosa giusta per cui gli spazi bianchi aumentano e diminuiscono le battute, è anche vero una cosa paradossalmente apparentemente contraria: i quotidiani hanno adesso 40-45 pagine, gli inserti culturali hanno 20-30 pagine, ma c'è questa cosa un po' strana per cui in realtà 6 di queste 20 pagine sono dedicate, faccio il caso ancora una volta di Robinson, a un'intervista a Vasco Rossi, che va benissimo perché Vasco Rossi può essere più interessante di un mediocre scrittore italiano, però Vasco Rossi ha già uno spazio nel sistema della cultura, la sua parola sì che è ascoltata, mentre invece allora si parla meno di poesia, si parla meno di narrativa o si parla negli interstizi di una intervista a Vasco Rossi. Quindi crisi della società letteraria, crisi della letteratura in generale, queste mi sembrano i due fattori. Adesso non voglio prendere troppo tempo, dico soltanto due parole su quello che può essere il ruolo della critica in questo contesto in cui lo spazio della letteratura si contrae e la parola della critica è meno autorevole e meno specializzata a parlare di letteratura, è meno abituata anche a parlare di letteratura. In teoria penso che abbia ragione Vanni, cioè in teoria in questa situazione la critica dovrebbe avere e ritrovare un senso di indirizzo, dovrebbe trovarlo perché viviamo in una epoca culturale in cui in realtà la letteratura di qualità, la buona letteratura, mentre aumenta molto la quantità di testi pubblicati, di testi soprattutto narrativi pubblicati, aumenta molto la confusione sull'importanza di questi testi. Ci sono sempre più romanzi, sostanzialmente, e ci sono sempre romanzi belli, continuano a essere scritti e pubblicati romanzi belli, però la confusione su che cos'è un romanzo bello è molto aumentata, per ragioni legate in parte al marketing editoriale e in parte proprio a quella marginalizzazione della letteratura, per cui sempre meno sappiamo che cos'è un bel testo letterario, perché siamo sempre meno abituati ad avere a che fare con la bellezza letteraria, almeno come la si intendeva una volta. Aumenta molto lo spazio di una letteratura, lo diceva Midcalt, possiamo usare questo termine, io nel mio libro lo chiamo nobile intrattenimento, cioè una letteratura, una narrativa in particolare, che è in realtà una narrativa di intrattenimento, nella sostanza, cioè è una narrativa che usa le tecniche, i trucchi, la forma della letteratura di consumo, ma che si dà una verniciata di cultura e di artisticità. Questa letteratura, che non è né letteratura di genere, apertamente di genere, fantasy, horror, rosa, erotico, eccetera, eccetera, ma che non è neanche una letteratura di grande spessore e ambizione letteraria, è una cosa che sembra grande letteratura, ma che in realtà è una letteratura di intrattenimento, insomma, questo tipo di narrativa sta scoppiando, non solo in Italia, in Occidente negli ultimi decenni, ed è quella cosa che diceva Vanni, cioè libri che vendono molto, che ti devono però anche far credere che siano belli. Ecco, allora, in questo contesto la critica dovrebbe tornare ad avere un suo ruolo di indirizzo. Io, sinceramente, ho qualche dubbio sul fatto che ci si riesca in questo momento, un po' perché, appunto, è difficile anche trovarla la parola nella situazione della cultura attuale, e la rete può essere uno spazio in cui diciamo, persone competenti e che conoscono le forme della letteratura possono trovare una voce, però sui giornali e sui mass media è sempre più difficile. E poi, e poi chiudo, un'ultima cosa che dirò poco popolare, non credo che mi renderà simpatica. Questa esplosione della letteratura mid-cult corrisponde a una situazione della società per cui sempre meno accettiamo l'idea che siano, le forme nella loro complessità, le forme letterarie nella loro complessità a dover essere ascoltate. Se una volta il libro bello, quale fosse il libro bello, ce lo diceva Montale, oggi il bello si decide a maggioranza, sostanzialmente. Cioè si ha molto l'idea che appunto la bellezza sia una cosa democratica, decisa perlomeno dalla democrazia. In realtà la cultura non è democratica, nel senso che la letteratura è un linguaggio formalizzato che per essere apprezzato nei suoi più alti livelli deve essere, non dico studiato, deve essere conosciuto però. È una cosa che si apprende con fatica e con divertimento, perché la letteratura è anche una cosa che fa divertire, naturalmente. Però non è una cosa che fa solo divertire, è una cosa che fa conoscere il mondo divertendoti. Allora, questa è una cosa che si impara meglio e si scopre meglio leggendo molto e leggendo libri belli. Ecco, noi viviamo in una fase culturale in cui magari c'è l'illusione che invece si possa avere un contatto diretto con la bellezza, e allora si prendono le scorciatoie. Quindi, da un lato, l'industria culturale propone delle scorciatoie perché marginalizza la letteratura di alta ambizione e marginalizza anche le voci competenti sulla letteratura, e dall'altro anche i lettori si abituano all'idea che la bellezza e la conoscenza siano cose a cui si possa arrivare direttamente attraverso magari le cose di cui si parla nei mass media, e invece questa può essere una scorciatoia. Quindi, vabbè, insomma, una cosa molto, un quadro molto generale, però secondo me la situazione è questa: trovare lo spazio e il modo per parlare di bellezza, sapendo che non è facile parlare di bellezza, che la bellezza non è una cosa che necessariamente ci arriva in forme facili o in forme democratiche. Spesso è una conquista che passa attraverso uno sforzo conoscitivo e culturale. Boh, io dopo c'è una frase di Tom McCarthy che si ricollega a quello che hai detto e a cui vorrei poi ricollegarmi. Te, Francesco, vuole intervenire direttamente su quello che ha detto Gianluigi? Beh, go on. No, io pensavo di far prima gli ospiti, ma se ti vedo carica al microfono, quindi intervieni pure. Me l'hanno consegnato, Come vuoi. Vado? Okay. No, la tua antologia si intitola La realtà rappresentata. A me ha fatto venire in mente, forse l'ho anche scritto in quel pezzettino che ho potuto scrivere su Linus, mi ha fatto venire in mente una frase di Walter City che io ho usato addirittura come nell'introduzione di Muro di Casse, perché la Terza, che per la prima volta con Muro di Casse di fatto faceva un libro che era un po' più un romanzo che un saggio, perché anche gli altri Solaris in cui usciva erano un po' più saggi che romanzi, mi chiese di dotarlo di un'introduzione, no? E in questa introduzione io andai a ritrovare quello che diceva Walter City, che mi sembrò per me molto condivisibile, ma è ovvio visto che faccio romanzi e non saggi. Diceva: la letteratura deve tornare a prendere il suo posto come ammiraglia, che il romanzo deve riprendere il suo posto come l'ammiraglia che la letteratura può usare per spiegare il mondo e opporsi alle scienze sociali, in estrema sintesi. E questo, La realtà rappresentata, mi ha fatto pensare a questo. Ora, in realtà il tuo libro è un'antologia che raccoglie gli interventi di 20 critici anche su temi molto diversi, anche se hanno a che fare con la forma romanzo in Italia in un periodo recente. Dal 2000 al 2006, quindi 16, scusa. E dunque io ti rilancio la domanda che ho passato anche a lui, chiedendo però di rispondere più brevemente perché te ne metto un'altra concatenata dentro. Quindi, se per te il ruolo di indirizzo della critica ha la possibilità di riemergere con forza in questo contesto, e poi invece passerei, visto che il tuo libro è proprio fresco di uscita, a dirci che realtà rappresentata emerge dunque da questa forma romanzo in Italia negli ultimi 16 anni. Allora, grazie Vanni, ovviamente inizio anch'io ringraziando, dicendo che sono molto contento di essere qui. Riguardo alla prima domanda, devo dire che la diagnosi di Simonetti mi sembra assolutamente condivisibile, e io provo lo stesso tipo di di sensazioni e della marginalità della letteratura e di conseguenza della marginalità della critica. È chiaro che nel momento in cui la letteratura si sgretola, la letteratura seconda evidentemente ne condivide il destino. Ho il sospetto da una parte che questo ci dia anche una grande libertà di fare ciò che vogliamo. Contiamo talmente poco che possiamo fare qualunque cosa, cioè possiamo essere iperonesti in un certo senso, e questo io credo che sia una buona cosa. Questo come prima cosa. Certo, avere una funzione di guida è ciò che io credo la letteratura, e in particolare, scusate, la critica, e in particolare la critica militante, storicamente ha fatto e deve continuare a fare. Diventa sempre più difficile distinguere quella piccola pepita d'oro in mezzo a tutta la spazzatura o ai cocci di vetro che brillano come la pepita d'oro, che sono quel mid-cult o quel nobile intrattenimento di cui parlava Simonetti. Credo che però ci sia anche una seconda funzione molto importante, che è, e mi ricollego a quello che dicevi tu rispetto ai recuperi, che possono essere anche recuperi molto più di 1970, possono essere un recupero del 1870, cioè, o più che recupero, la funzione di conservazione di una tradizione. Perché io credo che siano le due facce di una stessa medaglia. Per mestiere mi occupo del contemporaneo, o di come viene chiamato, dell'ipercontemporaneo. Cosa fino a qualche anno fa nelle università italiane piuttosto invisa, cioè si considerava Leopardi come letteratura contemporanea, no? Il che poneva qualche problema su cosa fosse a quel punto Walter City, se Leopardi è contemporaneo. Però diciamo, sono da una parte conservare ciò che ci ha dato la tradizione, e dall'altra chiaramente esplorare ciò che viene adesso con in mente quella tradizione là. Queste mi sembrano le due funzioni principali della critica. Non ho molto da aggiungere, perché veramente la diagnosi di Simonetti è assolutamente perfetta, mi sembra. Riguardo al libro, dunque, il libro è un libro antologia che antologizza degli studi sulla forma romanzo pubblicati in Italia dal 2000 al 2016, è preceduta da un mio, a seconda dei casi, lungo saggio iniziale, ed ogni brano antologico è a sua volta, cioè ogni brano antologizzato è a sua volta preceduto da un'introduzione che contestualizza quel tipo di brano all'interno della critica contemporanea. In realtà la realtà rappresentata è Auerbach, è un titolo che io ho rubato ad Auerbach, solamente che non se lo ricorda quasi nessuno, perché in realtà tutti si ricordano Mimesis, ma sotto c'è scritto la realtà rappresentata, e chiaramente Auerbach è molto più bravo di me non solo a trovare i titoli, ma anche a trovare i titoli, e dunque me ne sono appropriato così bellamente. Quale realtà viene fuori? Viene fuori una realtà molto variegata, sia dal punto di vista romanzesco, sia dal punto di vista della critica alla forma romanzo, anche se, a mio parere, io ho scelto un periodo molto, in un certo senso molto breve, cioè sono 16 anni, però i libri importanti di critica sulla forma romanzo, ce ne sono altri evidentemente, non tutti sono antologizzati, ma sono un numero abbastanza limitato, soprattutto comparato al numero di romanzi che vengono pubblicati. Viene fuori, secondo me, ma lo sappiamo tutti, un nuovo interesse proprio per il rapporto tra il romanzo e la realtà. Noi abbiamo nominato Saviano prima, in realtà il movimento del cosiddetto ritorno al reale, che è una definizione secondo me piuttosto imperfetta e che andrebbe discussa ogni volta, ma non lo farò qua adesso, perché veramente è un discorso molto lungo, cioè dovremmo impelagarci nell'idea di capire cos'è il reale e cosa non lo è, cioè questo mi sembrerebbe eccessivo oggi, però in realtà è un fenomeno che inizia negli anni 90 perlomeno, mentre Saviano, come sappiamo, è quasi due decenni dopo. Questa è la direttrice fondamentale. Secondo me c'è stato un movimento di ritorno reale che è un po' imploso, cioè sono nati romanzi inchiesta, sono nati romanzi reportage, sono nati romanzi sulla generazione a 1.000 euro e sono diventati moda. A un certo punto sono diventati moda e la mia impressione è che quella sia una vena che si sta lentamente esaurendo. D'altro canto, non mi sembra che questo ritorno alla realtà sia stato un fenomeno passeggero, o meglio, sia stato recuperato anche da quei romanzi che adesso non sono romanzi verità, non fiction novel, chiamateli come volete nelle loro differenti declinazioni. Ma romanzi con un vero impianto romanzesco, anche con personaggi inventati, ma che ricercano coscientemente quel rapporto col presente, col logico, il rapporto conoscitivo della forma romanzo con il mondo, che un certo tipo di sperimentalismo, non dico avesse perso, ma aveva messo in secondo piano. Francesca Matteoni, poetessa, prosatrice, perché hai pubblicato anche un libro a cui io sono particolarmente affezionato, essendone stato il padrino, redattrice storica di Nazione Indiana, a volte anche critica, perché comunque di recensioni ne hai scritte tante. Ecco, due cose ti voglio chiedere. La prima, ovviamente, è il tuo punto di vista sullo stato della critica online. Questa critica online si è presa uno spazio. Questo spazio ha un peso, una funzione. Oggi vedo una grande esplosione di riviste. Fino a qualche anno fa, quando ho cominciato a scrivere seriamente, nel 2006-2007, c'era Nazione Indiana, Carmilla e Minima et Moralia. E poi sono apparse le parole e le cose. Oggi, Crapula, Ircocervo, Balena Bianca, ce n'è una, molte, e spesso con buoni contenuti, E quindi è come se fossero diventate molte, però questo ha disperso ulteriormente il dibattito. Quindi qual è il tuo punto di vista su questo? L'altra domanda te la faccio in quanto poetessa. Io lo guardo sempre con molta curiosità il mondo della poesia, un pochino grazie a te e ad altri poeti che conosco, lo seguo anche. Ieri sera, alla serata di poesia del poeta Olmi con Contrabbando di Upupe, c'era la sala piena zeppa, c'erano 100 persone alla serata di poesia, quindi ho pensato c'è sempre speranza al mondo. Però io guardo spesso la poesia perché è diventato un mondo molto ristretto, in cui di solito chi fa critica di poesia è anche un poeta, mentre viva Dio ancora nella narrativa ci sono delle funzioni separate, anche se tendenzialmente i giornali cercano sempre più gli scrittori per parlare di scrittori, quando in realtà sarebbe meglio chiamare i critici proprio perché stanno fuori. E quindi i poeti leggono i poeti, criticano i poeti, invitano i poeti, è un micromondo che però rischia addirittura di essere, no, di implodere oppure trasformarsi in un terrario di scolopendre. Ecco, a me fa un po' questa impressione che cerchino sempre il momento per cannibalizzarsi a vicenda. Ecco, mi chiedo, non è che la literary fiction alta, cioè il romanzo o raccolta di racconti o prosa che cerca di essere opera d'arte, è destinato con la riduzione del suo pubblico e la scarsa voglia delle case editrici di venderlo, a meno di vincere il premione, a diventare una sorta di nicchia o di sottocultura come quella della poesia oggi? Allora, si prova a rispondere. Intanto, grazie, sono contenta di essere qui anche per prossimità e vengo da Pistoia, quindi e lavoro a Firenze. E, una bella occasione. Inizio dalla parte più semplice, che poi in realtà è per me anche quella di gestione più anarchica, cioè quella della parte online. Sì, io faccio parte di Nazione Indiana, però non ho questo grande interesse per il mondo online. Sono un po' rupestica, come si dice da queste parti. Comunque, allora, io credo che all'inizio è stato detto da Simonetti una cosa importante, cioè il fatto che ce la raccontiamo fra di noi, no? Sta diventando sempre di più una nicchia che c'è sempre stata. C'è un aneddoto che a me ogni tanto piace citare, che riguarda un filosofo diventato poi molto famoso grazie anche a una certa filmografia, che era Thoreau. E quando Thoreau, il trascendentalista americano di Walden, La vita nei boschi, scrisse il suo primissimo libro, che era un librettino, un libercolo scritto con il fratello, ne furono stampate 1.000 copie e credo che ne vendette 200. E lui diceva: io ho una biblioteca di 900 volumi, 700 li ho scritti io. Era il solito libro, purtroppo, quindi era anche molto noioso rileggerlo. Però ecco, questo è un aneddoto per dire veramente ci leggiamo fra di noi. E in questo anche il mondo online trova una, diventa una zona di conforto, perché non è che è diminuita la curiosità, sono sempre meno i curiosi riguardo i mondi letterari, riguardo il rapporto che c'è tra letteratura e realtà, che non è il rapporto che sussiste fra letteratura e cronaca, sono due cose un po' diverse. E, per cui si sta vedendo, almeno dal mio punto di vista, una specializzazione anche delle riviste. Quando Nazione Indiana è nata, io sono di seconda generazione, sono entrata dopo la diaspora, però insomma conosco la vicenda. Era l'unica realtà online e nasceva proprio per in qualche maniera supplire a certe mancanze del cartaceo, specialmente in ambiti come la poesia. Non è un caso se tra i fondatori di Nazione Indiana ci sono stati due poeti, Andrea Inglese e successivamente Andrea Raus, anche per parlare di quello che a volte sui giornali è un po' più scomodo, quindi rapporti fra appunto letteratura, realtà. Abbiamo una sezione che si chiama Razzismi Quotidiani, dove si parla un pochino più in maniera diretta rispetto a quello che tante volte ci capita di leggere. Ed era veramente uno spazio di libertà, uno se va a recuperarsi i post del 2005 o del 2008 trova una discussione incredibile nei commenti, tutto compreso, cioè dall'offesa a invece l'interazione critica interessante. Poi altre realtà in questo momento hanno preso la palla, secondo me. L'Indiscreto è una realtà che nasce a Firenze ed è sempre più letta, ma anche, bravo Francesco, ma anche Prismo, Crapula. Qual è il rischio per chi è all'interno? Allora, per esempio, noi di Nazione Indiana non siamo una redazione compatta, cioè siamo molto anarchici. Ci sentiamo, facciamo la festa, ci vogliamo più o meno bene, però ognuno fa quello che vuole con alcune regole. Altre redazioni invece hanno proprio un impianto di rivista, quindi con riunioni, incontri e condivisione. Il rischio è che tutti vedono la rete come un'uscita, quindi siamo sobbarcati di materiale continuamente, questo è un lavoro volontario fra l'altro, di materiale di gente che in realtà non legge. E mantenere l'attenzione critica su questo diventa molto, molto complicato, perché quando ricevi un tot di email ogni mese, in più hai il tuo lavoro e altre cose, non riesci a rispondere a tutti, e questi però pensano che siccome tu sei quello che gestisce l'approdo in rete dovresti considerarli, perché la rete è libera, è orizzontale, non verticale. Invece secondo me mantenere una certa verticalità è importante. Credo che un vantaggio della rete, e così poi passa a quello che mi interessa di più dire, sia il fatto che la libertà. Nei quotidiani, nella carta stampata, secondo me troviamo, cioè non solo secondo me, penso di essere l'ultima di una lunga fila a sostenere questo, troviamo delle grosse corresponsabilità del mondo in cui siamo, dell'immaginario che creano, perché comunque un quotidiano se lo sfogliano più o meno tutti, anche chi si ferma al bar e magari guarda due immagini, dice va, bada chi c'è sul quotidiano, e hanno una grossa responsabilità in come raccontano il mondo, decidendo sempre per esempio di fomentare la parte polemica, la parte tragica. Vi fo un esempio che conosco direttamente, quindi lo posso fare, il terremoto. Quante pagine inutili e insulse sulla tragedia del terremoto, specialmente nell'ultimo terremoto, quindi quello marchigiano, e dell'area umbro laziale marchigiana, insomma della Italia depressa, no? La famosa Italia depressa che va tanto di moda, questi paesini disabitati vanno sempre più di moda, l'importante è non avere a che fare con la gente che ci vive. Qualche anno fa ho condotto un laboratorio artistico finanziato dal Ministero dell'Istruzione, quindi non proprio l'ultimo arrivato, in questi posti non abbiamo trovato spazio nemmeno su mezzo quotidiano. Quindi il momento in cui tu vuoi raccontare qualcosa di diverso, l'arte per esempio al servizio delle scuole, dei ragazzi fra i 5 e i 13 anni, non trovi questo spazio. Non lo trovi, non c'è, e non dipende, non è il giornalista cattivo, attenzione, non sto stigmatizzando, è proprio che non è pensato così. è un problema strutturale, la rete su questo può intervenire in qualche modo. Chiaramente questa è una responsabilità di tutti, perché io non sono qui a dire ah poveracci gli artisti, noi siamo stati ben pagati per il lavoro che si è fatto, che non trovano spazio sui giornali, però una domandina tu te la fai, perché finché c'è da speculare in qualche maniera sulla tragedia tutti lì, e poi quando c'è da affrontare la cosa in loci non c'è nessuno. E perché tutti a parlare di questa Italia da ricostruire poniamo l'attenzione sul fatto che quel dramma lì è il dramma dell'Italia rurale che scompare, è il dramma di un'economia che scompare, questo è un problema grave, specialmente se uno va in quelle zone, non sono zone industriali, cioè ci sono le pecore, e quella è la parte che ha veramente sofferto, al di là poi delle vittime, delle cose che ci colpiscono e che ci prendono alla pancia, ma tanto la pancia è l'unica cosa che importa oggi. Sul resto c'è un problema di, che poi investe anche la poesia, di autorevolezza e fama. L'autorevolezza oggi non c'è più. La persona comune, in Italia non c'è mai stato un popolo di lettori, quindi non ci raccontiamo le bugie, che come si stava meglio quando si stava peggio, non si leggeva mai, però la persona comune comunque aveva un'idea dell'intellettuale, del poeta, dello scrittore, dell'artista che magari ogni tanto scriveva sui giornali, che poteva passare in qualche trasmissione, in qualche antica trasmissione televisiva con tutt'altro, appunto, tutt'altra autorevolezza, che ne so, dei Gramellini. Questa cosa oggi è scomparsa. Lo sappiamo, no? Il fatto che tu chi sei solo perché hai studiato, però c'è la fama. E la fama chiama ancora. Infatti io non sono una nemica, per esempio, delle persone famose che sposano le giuste cause. Mi dispiace che poi l'accento non si sposti mai su altri contenuti. Però se un Fabio Volo, con cui io non spartisco niente, proprio niente, a partire dal genere, che non spartisco con molti scrittori italiani, parla, si esprime criticamente contro l'attuale governo, bene, forse qualcuno l'ascolta. Vediamo poi di andare un po' più in là, di alzare un po' l'asticella, questo è il problema. Come alzare l'asticella? Come far sentire, non dico a un numero maggiore di persone, ma a piccoli gruppi, piccole minoranze, che di volta in volta possono fare la differenza, perché la differenza le fanno le minoranze, o addirittura quell'antico, ormai demodé, quasi una bestemmia, mito del grand'uomo, che ci può venire dalle vite di Plutarco, no? Che ormai è una cosa completamente appiattita, guai a essere grandi in quel senso lì, grandi e isolati, perché grandi sconfitti, grandi sono sconfitti di solito. Intanto forse facendoci anche delle domande su che cosa fa la letteratura in sé e su che cosa la critica letteraria, ogni volta che ci prova seriamente, credo che questo sia il campo, va ad evidenziare. Il poeta, lo scrittore, ha questo problema del marketing, no? Appunto di vendere, di essere su quel livello del bello accettabile. Ecco, io per esempio il bello lo rifiuto come categoria, mi fa anche un po' ribrezzo, preferisco il sublime. Preferisco proprio il sublime, è quella cosa che ti sconvolge. Il bello, ah bello, cioè è un modo comune di definire qualsiasi cosa. Il sublime è sconvolgente, proprio quel sublime dei romantici. E la letteratura deve fare questo. La letteratura cosiddetta bella, usando una categoria molto abusata, è quella che ti conforta e che poi passa, perché non cambia il tuo mondo di una virgola. La letteratura sublime o anche imperfetta, però dove chi scrive si mette alla prova con questo mostro del sublime, è quella che sposta l'asticella, che ti dice, ti porta in un posto dove non eri stato, ma che misteriosamente ti riguarda. Non ci sei mai stato, però ti riguarda. E da lì la curiosità nasce. E più sei curioso del mondo, della letteratura, degli altri, più vedi avvicinarsi la letteratura a quel mondo in cui stai, non quel mondo da cui vuoi fuggire, più le cose cominciano lentamente a cambiare, secondo me. È un po' questo. Perché non c'è più questo discorso? Perché si pensa al contemporaneo, che cosa fa la letteratura contemporanea, e non si pensa tante volte a chi sono i contemporanei di coloro che scrivono. Cosa voglio dire? Cioè, è chiaro che se una persona scrive nel 2015, i suoi contemporanei, proprio in senso storico, saranno quelli che scrivono nel 2015, ma i suoi contemporanei in senso artistico chi sono? Con chi ha il dialogo? Quel famoso dialogo, no? Con i morti che sono più vivi dei vivi. E io me lo chiedo spesso, chi sono i miei contemporanei? E li trovo nei luoghi più disparati, qualche volta nemmeno fra gli artisti, più facile li trovi fra le marmotte, per esempio. Però li trovo ogni tanto, se mi faccio questa domanda. Perché l'artista ha un solo compito, che viene sempre di più bypassato, perché bisogna sopravvivere e portare a casa il lesso, così. Cioè, il suo compito è l'opera, banalmente, non c'è altro. L'opera è la tua serietà, la serietà con cui sei immerso nella tua ricerca. E chi scrive, chi crea, chi ci prova, è in cerca di un senso in un mondo dove è immerso. Mi rifaccio velocemente a una cosa che è stato detto nell'incontro di prima, che mi è piaciuta molto, del working class hero, che cerca disperatamente di scappare, no? Dal suo luogo natio, dal suo ruolo natio, dalla sua classe sociale, e poi ci ritorna, perché noi siamo condannati dal nostos, noi siamo condannati dal tornare lì dove siamo. Ecco, questo ritorno per me è quello che si cerca, e la critica buona deve provare con coraggio a indagare quello di cui si va in cerca, non quello che si trova, perché non si trova nulla, secondo me tante volte non si trova nulla, però nella cerca c'è la speranza, no? La speranza è l'ultima a morire, luoghi comuni su luoghi comuni, e questo è veramente importante. Sulla poesia ci si legge in pochi. La poesia ha una cosa che la salva. C'è uno scritto interessante, molto bello, di Laura Pugno, che è una scrittrice, poetessa, ha fatto questo librino in territorio selvaggio, parlando della poesia, è molto ispirato al terzo paesaggio di Gilles Clément, che appunto barbaramente teorizza, oltre che alla cultura, alla natura, l'incolto. E noi dovremmo andare verso l'incolto, perché la creatività è lì, non nella natura e non nella cultura, ma nell'incolto, in quello che c'è da coltivare. E dice, beh, la poesia, anche se non la legge nessuno, resiste, perché è la parola primitiva, è il ritmo, dicevi oggi, no? Alla fine è il ritmo che ci tira, ha una dimensione orale fortissima, è veramente come le pitture rupestri del sud della Francia. Certo, poi andrebbe anche letta. Io ho sempre soltanto un piccolo consiglio. Si comincia a scuola. Finché a scuola passa l'idea che le poesie sono dei foglietti appiccicati al muro, scritte da gente che deve esternare il suo malessere, che poi ce l'abbia o non ce l'abbia, per me se lo tiene il suo malessere, insomma, come me lo tengo io, in maniera un po' etica. No, le poesie stanno nei libri. Cioè, ci sono dei libri pensati attorno alle poesie, concettuali, che hanno un senso. Bene, iniziamo a leggere il libro di poesia. Oltre, io prendo i super classici, cioè oltre che un romanzo, leggete Gli strumenti umani di Sereni e scoprirai, per esempio, che la letteratura italiana sta scoprendo ora il romanzo, che è veramente una terra vergine per noi, ma alla poesia nel sangue. Alla poesia nel sangue. È quello che siamo. Noi siamo una terra, guardiamoci. Non siamo una terra di grandi pianure, non siamo una terra di grandi altezze, siamo una terra di colline, fratte, boschi, sì, poi c'è la pianura padana, però nel senso è tutto molto frastagliato, è tutto molto ritmato. Come si fa a scrivere il grande romanzo in un paese geograficamente così, che rispecchia il nostro animo? Ecco, la funzione della letteratura, almeno quella che io credo in questo momento mi guidi, è questa, cioè restituirci al qui e allora, al presente, che è la roba più assurda, il presente non esiste, no? La roba più assurda che c'è. La letteratura fa questa magia, porta il lettore nel presente. Che cos'è il mio presente? E la critica ha un grande compito, perché se nessuno legge libri, figuriamoci se si leggono i libri di critica letteraria, però io mi auspico una critica dove i critici si chiedano qual è il mondo, qual è l'opera che questo autore persegue. Non come si colloca, poi di conseguenza parlerà del suo tempo, perché se uno è fedele a se stesso poi parla del suo tempo. E anche, ma le donne scrivono? Perché, e non ci sbagliamo, ma qui, e si continua ad avere un problema di genere grosso come tre universi, e lo dice una che non è né particolarmente femminista, cioè a me gli esseri umani in generale mi fanno un po' afa, ecco. Rinascerò, spero, in un'altra forma, mammifero, perché è la più vicina a me, si parla di ciò che abbiamo più vicino, però questa cosa è evidente, e insomma dopo un po', ma è vero che siamo barbare e tutto il resto, però la penna a mano si tiene anche noi, o la tastiera. Grazie. Edoardo Rialti, Francesca ha detto una parola che so essere magica per te, in realtà per tutti, ha parlato di cerca, no? Parola chiave nel fantastico, ma non solo nel fantastico, perché se ci pensiamo, alcuni romanzi decisivi di fine secolo, dell'inizio del nostro secolo, ruotano intorno al tema della cerca, no? Pensa ai Detective Selvaggi e a 2666 di Bolaño, in cui addirittura si crea pretestuosamente una cerca pur di mettere in atto gli eventi, no? E questo però ce lo insegna anche il mito arturiano, no? È importante andare a cercare il Graal e andarci, non stare qua a chiedersi se il Graal esiste. Vai a cercarlo e magari cercandolo lo metterai in esistenza. Ecco, Tu ti sei formato inizialmente come critico di fantasy specificamente, stai scrivendo una vera e propria storia del fantasy sull'indiscreto, però al tempo stesso sei un critico militante che sulle colonne di un quotidiano scrive abitualmente di narrativa contemporanea e prevalentemente di literary fiction, non di genere, quindi diciamo ti muovi in entrambi gli ambiti. E ti vorrei chiedere intanto, dal tuo punto di vista di critico, come hai vissuto questo periodo che sta venendo in atto ora, forse già finendo, normalizzandosi, in cui improvvisamente anche il fantastico ha iniziato a essere preso sul serio, fondamentalmente. Poi, sulla mancanza di una critica, a parte te, davvero seria sul fantastico, io quando scrissi dei libri fantasy mi interessai e mi resi conto che mancava completamente una critica italiana, mentre nel mondo anglosassone c'erano fior di articoli su Gaiman, su la Rowling, e così in Italia non c'era niente, c'erano dei blogger assetati di sangue che si scannavano a vicenda, erano tutti aspiranti autori fantasy, quindi il loro unico obiettivo era distruggersi a vicenda e sputare addosso a chi era riuscito a pubblicare un libro e nient'altro, non era come se ci fosse una wasteland piena di bestie feroci. E oggi le cose cambiano, perché come abbiamo visto anche al convegno che abbiamo organizzato, quello sul nuovo sconcertante italico, l'etichetta avevamo dato scherzosamente alla tendenza weird della literary fiction italiana, prendendo ad esempio libri come quelli di Funetto, di Fronzo e poi moltissimi altri che introducevano elementi prettamente presi dalla speculative fiction all'interno di strutture, modalità romanzesche e anche lingue che invece erano tipiche della literary fiction. Ecco, il punto di vista di un critico che è partito dal fantasy puro, d'accordo, e poi si è mosso anche nella letteratura contemporanea su questo mutamento in atto. Innanzitutto buonasera, e premetto che è francamente commovente che un sabato sera si sia qui a dialogare di questo, e soltanto alla Polveriera può succedere una cosa del genere, perché fa francamente impressione, insomma non è affatto scontato, secondo me, eh? Insomma, ecco. La cosa che voglio dire è questa. Faccio anche un'altra brevissima premessa che in qualche misura spero dialoghi con quanto è stato detto, è tutto molto importante e interessante. Cioè, io vabbè, appunto, ho una formazione che in realtà appunto è quella di un comparativista, perché io ho sempre studiato appunto la letteratura italiana, la letteratura inglese, perché per la mia formazione, per i miei punti di riferimento, si trattava in realtà di un unico grande orizzonte narrativo e immaginativo comune. E volevo dire questo, che per quanto mi riguarda come lettore, perché essenzialmente poi gli scrittori, i critici, sono sempre anzitutto dei lettori, ci sono delle pagine della storia della critica letteraria che per me sono state importanti come le pagine di poesia e come le pagine di romanzi. Cioè, io ad alcune pagine di Steven Zweig, di Mario Prats, di Allen Tate, di C.S. Lewis, io devo una qualità di sguardo sulla realtà che per me è importante. Tra l'altro, questo secondo me si lega, credo, anche al tema della polveriera, cioè un festival di letteratura sociale. Cioè, c'era una cosa che disse Burckhardt quando morì Nietzsche, e cioè che gli scritti di Nietzsche aiutano l'indipendenza nel mondo. Io ci ho ripensato quando quest'anno, in un momento che era veramente asfittico del nostro dibattito generale in Italia, sono tornate le lezioni di Nabokov di letteratura per Adelphi, e io quando l'ho recensito ho detto, francamente, leggere questo libro per me adesso è stato una sorta di manuale di rileggerlo è stato un manuale di sopravvivenza anche etica, perché l'amore per il dettaglio e per l'attenzione che la critica dovrebbe esercitare quando si mette ad auscultare un testo è una cosa che ha a che fare, secondo me, con la vita in generale. Ma su questo spero brevemente di tornare. Per questo io in realtà vi volevo leggere una cosa che mi sono portato, cioè mi sono trascritto quella che per me rimane, per quanto mi riguarda, la definizione forse più bella di critica, che è appunto una cosa che disse C.S. Lewis. C.S. Lewis è stato docente a Oxford e Cambridge, è uno dei pochi che è stato nei Romeo e Giulietta, nei Montecchi e Capuleti della cultura inglese, critico letterario importantissimo, grande scrittore e autore di letteratura fantastica, proprio per dimostrare la diversità anche di un altro orizzonte, quale poteva essere in Inghilterra. E nel suo saggio sulla letteratura medievale, L'allegoria dell'amore del 33, lui diceva: compito principale di un critico è iniziare un'analisi per poi lasciarla incompiuta. Le analisi, infatti, non vanno intese come sostitutive dell'apprendimento immaginativo. Il loro scopo è quello di ridestare, prima di tutto, nel lettore, la coscienza della vita e dei libri, per quanto vi è in essi di rilevante, e poi di suscitare in lui quegli elementi meno coscienti che soli possono rispondere pienamente al problema. Per me, per quanto mi riguarda, questo rimane uno dei compiti fondamentali della critica. Cioè, in un momento nel quale il dibattito collettivo, cioè George Steiner, no, in Vere presenze già diceva negli anni 90 che la comunicazione nel XXI secolo sarebbe diventata la quarta dimensione, no? Oggi tutti leggiamo e tutti scriviamo, tutti comunichiamo continuamente con dei testi, ma è anche una condizione nella quale il rischio della banalizzazione e della confusione fra reazione e autenticità è non soltanto vero nei nostri dibattiti fra esseri umani, ma tantissimo anche nell'ambito della ricezione dei testi. Molte cosiddette recensioni in realtà sono delle reazioni. Ce ne vuole per poter dire veramente quello che un testo vuol dire per te. In tutto questo, quando Eliot diceva già negli anni 30 che il compito del poeta, ma a me viene da dire in generale dello scrittore e del critico, è di purificare il dialetto della tribù. Purificare il dialetto della tribù. Rivendicare l'arte della complessità, delle sfumature, del dettaglio. Secondo me, di questo c'è un gran bisogno, ma in realtà, al netto di tantissime dimensioni di banalizzazione, l'anno scorso Calasso ha scritto, no, L'innominabile attuale, nel quale paragonava il turismo di massa al terrorismo di massa, no, dicendo che le mete fisiche diventano esattamente come i posti che si vogliono colpire, no? A me ha molto colpito questa immagine perché ho detto in effetti a un certo livello anche un certo modo di presentarsi con i libri in mano sui social non è tanto diverso da come si fa una foto a un paesaggio prima ancora preoccupati di farla vedere che neanche di guardarlo. Però in tutto questo in realtà io devo essere sincero, al netto di tantissime dimensioni molto negative io incontro anche tanta fame di complessità. Tanta fame di complessità. Una dimensione per me, e quindi mi ricollego alla tua domanda, è proprio nel rapporto con la letteratura fantastica. Ne abbiamo parlato tante volte insieme con te, Vanni, dicendo che, io lo dico sempre, no? In università devi parlare di Tolkien e a Lucca Comics devi parlare di Proust, per quanto mi riguarda. Cioè devi sempre essere queer, devi sempre essere strano. Perché? Perché in realtà è vero che negli ultimi anni, finalmente in Italia, si è spezzato quel ghetto per il quale appunto la letteratura di immaginazione, la letteratura fantastica era considerata una letteratura di fuga, di evasione, se non addirittura appunto una letteratura reazionaria per l'appropriazione vergognosamente indebita che era stata fatta da parte della destra extraparlamentare e soprattutto del Signore degli Anelli, per cui c'è stato invece un lavoro molto importante di alcune voci che su questo hanno finalmente sfondato gli steccati. Proprio in questi giorni esce molto bello il nuovo libro di Vumi in quattro, il fabbro di Oxford, che è proprio con prefazione di Edoardo Rialti. Io non ho delle royalties aggiuntive, quindi non, però nel caso compratelo perché è molto bello. Ma ci sono stati altri tanti interventi importanti. In realtà, dal mio punto di vista, il tentativo che abbiamo fatto appunto con l'Indiscreto, con la storia del fantasy, con Francesco Disa, era di dimostrare una cosa, per quanto mi riguardava, evidente, che veniva dalla mia formazione di studioso di letteratura medievale rinascimentale, e cioè che noi tendiamo a considerare come una scoperta, una riscoperta, quello che in realtà costituisce uno dei grandi filoni fondamentali della letteratura di tutti i tempi, perché appunto, cioè, noi consideriamo la letteratura fantastica una cosa, materia di Bretagna diventa quasi un'etichetta di provenienza per noi, cioè se un fantasy non ha un protagonista che si chiama John o Eric non funziona, ma in realtà per due secoli la letteratura europea ha ricevuto il fantastico dall'Italia, perché Milton e Spencer hanno ripreso il fantastico, financo il fantastico arturiano, dai nostri Boiardo, Ariosto e Tasso, che venivano ancora letti dalle signorine del Settecento in Inghilterra. Questo perché lo dico? Si collega alla questione della critica, perché io credo che ci sono due funzioni, secondo me, tutt'oggi molto importanti della critica, e ci sono anche degli spazi nuovi, l'online, che oltretutto mette a disposizione delle persone e anche della scuola, per quanto mi riguarda, delle risorse straordinarie. Io, da critico e da traduttore, considero il fatto che online si possa assistere così tanto alle riprese delle prove degli attori, delle grandi compagnie teatrali, una cosa che io non mi stanco di ascoltare letteralmente a cucchiaiate, fin quando, anche quando lavo i piatti. Perché? Perché gli attori che lavorano per mesi su delle parole a me hanno aiutato da traduttore a vedere che la parola è uno spazio nel quale si sta e nel quale si impara tantissimo. Gli audiobook, il fatto che si possa ascoltare le storie, no? C'è un mio collega professore di liceo che il primo voto che dà ai suoi studenti al terzo anno delle superiori quando gli fa leggere Donna del Paradiso di Jacopone da Todi, e a seconda di come lo leggono lui gli dà il voto in italiano, perché lui dice la lettura, non l'interpretazione attoriale, ma la semplice lettura di un testo mi dimostra come voi lo avete capito anche rispetto a quello che abbiamo detto in classe. Bene, tutto questo per dire che in realtà appunto l'elemento della critica valutativa secondo me rimane molto importante, la questione di aiutare a distinguere ciò che conta, quindi mettere il lettore in rapporto con la vita autentica del libro. Ma l'altro elemento importante per quanto mi riguarda è anche quello filologico storico. Io appunto tante volte mi trovo a dover a parlare di letteratura fantastica magari anche in convention che non sono immediatamente letterarie, e te vedi quanto i lettori o gli appassionati della letteratura anche di genere si illuminano quando tu gli fai capire che in realtà queste cose che loro amano in un testo, in un libro, in un personaggio vengono da una tradizione letteraria molto ampia e molto complessa. Quindi queste cose sono molto importanti. Perché? Perché secondo me noi, di fronte a questo letterale salto quantico che è la società contemporanea e i social media, possiamo, come ha detto anche recentemente Alessandro Fo, Alessandro Fo, cioè il nipote di Fo, quello che ha tradotto Catullo e l'Eneide per Einaudi, se non mi ricordo male, non lo confondo con Jacopo, Alessandro Fo, che ha ribadito l'importanza degli strumenti della critica filologica anche nel mondo, nel mondo contemporaneo. Un albero è più grande se ha più cerchi, non se ne ha altri, perché altrimenti è semplicemente un albero diverso. Grazie. Io non si sente perché tengo in mano il torno ai nostri primi due ospiti per fargli una domanda. In un libro di poesia, appunto, che ho letto di recente, che si chiama La pura superficie, scritto da un critico anche, Guido Mazzoni, in fondo, dopo le poesie, ci sono delle prose che io ho trovato di estremo interesse, in cui Simonetti figura addirittura come personaggio, d'accordo? Ci sono dei critici letterari a Genova, mentre volano le legnate, che sono lì e non sanno cosa fare, sono disperati mentre intanto sta scoppiando il delirio, no? E questa cosa chiaramente colpisce per il suo impatto allegorico, d'accordo? Voi a quei tempi eravate ricercatori, eccoci, presumo, qua, comunque, alla terza universitari, terza non ancora forse semplicemente questo studenti Festival di Letteratura Sociale, quarta edizione. Però chiaramente quando uno legge che Guido abbiamo un esponente sottile, un compagno testa della al tizio casa accanto, te ti immagini oggi, sì, no? Cioè si crea un cortocircuito, cosa fanno? Interessante, cosa là dentro. Allora, io e anche un senso di tu sei tutto, potenza, sono, no? Però visto che sì, siamo non credo. Allora proverò a fare il mio peggio. Quindi allora abbiamo Mario Schizzo, in cui che è uno delle, diciamo, degli animatori programmaticamente e soprattutto diciamo quello che ha creato le autoproduzioni Fenix, che sono delle autoproduzioni storiche del movimento Scotter di Torino, che iniziano la loro attività di pubblicazione nel 2003 con il libro Le scarpe dei suicidi di Tobia Imperato. E la storia delle autoproduzioni Fenix si incrocia con la storia delle occupazioni. Chi partecipa a Fenix non è un intellettuale separato, ma appunto secondo la tradizione anarchica tende a coniugare pensiero e azione, lavoro manuale e intellettuale, questo insomma ci piace ricordarlo. Schizzo è animatore e occupante storico del Paso fin dal 1987, del Barocchio, dell'Asilo, è stato amico di Sole Baleno, è autore di alcuni libri, mi ricorda alcuni, ad esempio Tutto per Niente, che è un testo importantissimo su Stirner, è traduttore di Abel Pax e di testi sul dadaismo e sul surrealismo, e oltretutto è anche redattore di Radio Blackout. Insomma, io non la voglio fare lunga e passerei direttamente la parola a lui, che così ci racconta qualcosa di interessante. Grazie. Allora, sì, di cose interessanti da dire rispetto a Fenix ce ne sarebbero parecchie, perché con Fenix inizia la storia delle occupazioni a Torino. All'inizio degli anni Ottanta c'è il movimento punk anarchico che si ritrova insieme agli anarchici e cominciano le prime occupazioni in una città dove non c'è più nulla. Le ultime occupazioni sono state sgomberate negli ultimi anni degli anni 70. Erano le occupazioni del proletariato giovanile, la coda del movimento del 77, che peraltro a Torino non era stato molto forte e che era comunque tutto sprofondato nella lotta armata e nella repressione durissima, che non aveva più lasciato niente, non cresceva più erba, c'era tutto bruciato, no? E quindi si tratta di ricominciare in un periodo assolutamente nero dell'edonismo reganiano, in una situazione dove tutto dice il contrario. Invece anche perché Torino è un po' una città particolare, sullo stesso piano di altre tutto improvvisamente diventa possibile, e dopo una prima mentre occupazione fallita nell'84, un'altra nell'85, nell'86 occupiamo Fenix e riusciamo a resistere per la prima volta una notte, una nottata, era la notte del plenilunio d'estate, in un'occupazione. E questa è una cosa la che mattina non te la dopo fa ci bicchiere di vino. Però è la prima volta che facciamo il ciclo completo della giornata in un'occupazione, col clima di repressione che c'era non era male. Di lì poi si parte per andare a occupare il Paso, l'anno dopo occupazione del Paso che è ancora vivo e vegeto adesso. Che e molti l'hanno pensato questo una casa occupata storica ormai perché ha più di 30 anni di occupazione. Dal Paso partiranno tutte le altre occupazioni, barocchi, asilo, eccetera, eccetera, Prinzò. E anche un sapere diverso da altri saperi. Ma appunto comincia già la storia di Fenix. Fenix viene occupata, sgomberata e diventerà il nome delle autoproduzioni questo è più modo. Di quelli che si chiamano, si chiameranno squatters, che si autodefiniranno squatter. Adesso ancora a Torino ci sono varie realtà di occupazione, di autogestione che si chiamano così, il barocchio squat, il mescal squat, l'edera squat, sono... Sono degli esempi, no? Oltre ai centri sociali, è un altro modo di vedere l'occupazione, di intendere l'occupazione. Nello squat ci si abita, nel centro sociale, il centro sociale è più che altro un contenitore di iniziative sociali. Adesso in realtà queste carte si stanno mischiando alla grande, non c'è più questa netta divisione, che era anche un po' una divisione ideologica fra comunisti anarchici, per dirla chiara. Dal 2002 rioccupiamo Fenix e stavolta ce la facciamo e rimaniamo fino al 2005 lì cominciano le autoproduzioni Fenix, quindi vedi che si intreccia proprio il discorso di azione diretta, autogestione e anche la cosa dell'autoproduzione, un ramo specifico dell'autogestione. E cominciamo con Le scarpe dei suicidi, invece che, libri, che è un libro di Tobia Imperato, che è un compagno anarchico autodidatta che ha scritto questa storia dettagliata, questo saggio dettagliato sulla vicenda di Sole Silvano Albaleno, a cui si fa riferimento per ricostruire un po' questa vicenda. Un altro libro era stato scritto ma in forma romanzata da un autore argentino, venuto uno scrittore piuttosto famoso argentino, Martin Caparros, che era venuto apposta, mandato dalla famiglia con la raccomandazione della famiglia per ricostruire la storia di Sole che si era che era morta, morale, in una situazione politico, di filosofico, non ha bisogno detenzione, di una parola, per cui si dice per suicidio, ma non si sa perché suicidata sicuramente, se non fosse stata poesia, arrestata, non sarebbe morta. Questo vale per lei e per Baleno. Quindi questa situazione qui viene fuori la necessità di scrivere questa storia tragica, come erano state scritte le storie di Pinelli, di Serantini, eccetera. Questa è una cosa che si sta molto per questi anarchici e prima ancora di Sacco e Vanzetti, a voglia ce n'è, quanti ce n'è, no, è un po' una specialità dell'anarchia, un po' troppo, fino ai nostri giorni, e cominciavano appunto in quell'epoca lì di massima espansione delle case occupate, che era più o meno nel 1996-97, c'erano soltanto di case occupate da anarchici c'erano 12 a Torino, io credo che quindi era piuttosto numeroso, più i centri sociali, e allora cominciano i primi attacchi della repressione, no? Prima la montatura Rosmarini, dove gli anarchici degli squat vengono messi dentro una banda armata inventata direttamente dal PM Marini, che poi è una montatura che crollerà, e già ci mettono dentro, mi sembra Baleno, ce l'abbiano messo dentro. L'anno dopo parte la montatura specifica sulle case occupate, sugli squat, e quindi la montatura che porterà all'arresto di Sole Silvano e Baleno e allo sgombero istantaneo in tre case occupate contemporaneamente la stessa notte. Era chiaro che l'obiettivo era quello, no? Ancora adesso, per fare un parallelo a cosa è successo poco fa a Torino, quando c'è stato lo sgombero dell'asilo, li hanno accusati di associazione sovversiva. Era crollata subito, però serviva per riempire i giornali, per giustificare lo sgombero violento, eccetera. Nel 2002 appunto c'è l'occupazione, 2003 prima edizione delle scarpe dei suicidi, poi partono le altre edizioni nel 2006. sei tutto per niente che su Max Stirner l'influsso del pensiero del fondatore dell'individualismo anarchico sull'arte e sulla politica, specificamente sull'anarchia, sempre nel 2006 la traduzione, durata 9 anni fuori dal tempo, qualunque tempo di produzione, perché si correggeva capitolo per capitolo andando fino a Barcellona, fatta col biografo di Buenaventura Durruti, Abel Paz, no? Abel Paz che a sua volta era un altro uomo di pensiero azione, un altro autodidatta che era stato 13 anni nelle carceri franchiste e poi era diventato il biografo di Buenaventura Durruti. Noi traduciamo la cronaca appassionata della Colonna di Ferro, che è la colonna, una delle colonne più radicali dell'anarchismo spagnolo durante la rivoluzione, quella che rifiuta la militarizzazione fino all'ultimo. Non scommettere, lo presentiamo appunto al Festival di Radio Blackout. La presentazione verrà Abel Paz in persona, seppur anziano, da Barcellona a presentare questo libro. Poi ci saranno altri libri, quello sulla rivolta delle banlieue parigine, Il rogo delle vanità. Ci sarà l'ultimo che è uscito, è quello sulla storia del dadaismo, che è sul Dada a Parigi, che fa un po' il paio, io suggerisco, darei un suggerimento, fa un po' il paio con quello di Nautilus en avant Dada, che è un'altra edizione, un'altra autoproduzione torinese, che così uno può avere un panorama completo del dadaismo. In questo libricino sul Dada a Parigi, scritto da Ribemont de Segne, che è stato un dadaista e non è stato più surrealista, non ha continuato la carriera insieme a Breton, e c'è anche appunto tutto un pezzo scritto dedicato alle invettive dei surrealisti poi contro Breton, una seconda sezione del libro che si intitola Un cadavere, riprendendo un vecchio titolo surrealista che Breton aveva usato contro Anatole France, no? E quindi insomma, diciamo che ci sono gli stimoli, ci sono, abbiamo anche prodotto riprendere e continuare il tema di 45 giri di Cobra Killer che ormai esaurito, abbiamo prodotto io non un sono video sicuro che sia sulle lotte contro il terzo valico, l'alta velocità, mi auguro che lo sia. Lo è capacità, secondo me, in forma di mediata una letteratura senza la mediazione della critica. Parlo un po' prodomomea, ma immagino che il dialogo che si instaura fra la letteratura prima e la letteratura seconda arricchisca anche la letteratura prima e non solo la letteratura seconda, sempre ben tenendo presente i piani diversi. Neanche io scrivo versi o romanzi, quindi sono ben consapevole di arrivare, cioè di provare a ragionare su qualcosa che c'è. In fondo al suo vero nocciolo io credo che sia questo, cioè provare a ragionare su un testo e sul suo rapporto con altri testi. Con il mondo. E dall'altra la cavallerizza, cioè questo molto semplicemente sta cercando le strade per sulla natura sociale così della letteratura, seguendo un po' quello che è stato fatto a Napoli dal sindaco De Magistris, i buoni libri di letteratura, anche se qualche compagno di Napoli non se ne è accorto, non è d'accordo, è una cosa molto, comunque, molto banale, vuol dire, però riescano a far sì che si instauri un diverso rapporto del soggetto che legge con il tempo e quindi anche con il proprio dopo tempo. Lo sgombro del Leon Cavallo che aveva segnato proprio leggere una oggi netta, la montagna incantata, nel senso che dopo Mann, la resistenza onorevole significa da Leon Cavallo in un certo allo modo violento, opporsi a quello che è la velocità Romero, del nostro tempo presente sono e credo che questo sia già di per sé un atto che cambia il nostro essere nel mondo, quindi è un atto Manfatti. Etico o sociale, perlomeno sociale, quindi, poi cominciano vediamo. La storia delle tute bianche, purtroppo un periodo molto critico, no? Che terminerà poi nel 2001 con la tragedia, abbiamo fatto fuggire il cordino Giuliani, sì. Che non basta più mettersi d'accordo con la polizia, no, è un gesto in generale di fare gli scontri, roba del genere, finisce questa vicenda. di averlo e già tra detto tra l'altro prima, finisce abbastanza allora male perché questi sono legalizzatori perché insomma, appunto, il leader del Leoncavallo va a finire in Parlamento, Farina va a finire da tanti punti di vista che in realtà in qualche misura Casarini è stato anche collaboratore di Livia Turco, ricordiamocene queste cose. Casarini, Agnoletto, europarlamentare, la critica è bellissime figure che però appunto al movimento di un'esperienza fondamentale che ritiene che questa società non sia riformabile, quindi si possa solo rivoluzionare. La lettura è il primo fondamentale atto critico. Quindi ogni lettore da allora è partito questo dibattito forte che ha avuto dei momenti di alti e bassi, secondo me continuerà a chiedere almeno sgomberi portati avanti in realtà la fatica da tutti i poteri, perché Torino corpo prima a corpo era un feudo del PD attenta come anche del qua, testo no? Che è in realtà sempre PC, la testimonianza che in fondo di un amore e di una gratitudine, ma con i 5 Stelle dell'Appendino la cosa non è cambiata, anzi per forse me, anche peggiorata, è anche una declinazione dell'altro di Torino ha già totalizzato 6 sgomberi notevoli. A noi ci ha sgomberato già due volte Fenix, evidentemente di particolarmente simpatica, sì, due volte, poi l'ultimo lo sgombero clamoroso nell'asilo, che anche loro sono traduttori, le, la lettura è la prima volta, stati, la prima traduzione, ma anche altre situazioni tipo tuo gli sgomberi come le definiscono loro dall'attività umanitario o sgombero morbido, che imparare lo sgomberosamente tanto è divertente, è la possibilità semplicemente di stare, è un ossimoro, non c'è una cosa che non ci quelli che scalano che si contraddice da sé, no? E nel senso come la guerra umanitaria, esatto, quindi, sono gli sgomberi dell'ex villaggio prima, olimpico, cioè, occupato dai migranti, nella banalizzazione non possono feroce poi di male, tanti però, dei nostri linguaggi e del nostro modo di recepire, certo, e la strada ce l'hanno, e poi questi però ritornano tempo fa un gesuita, padre Antonio Spadaro, direttore noi in questa cattolica che da questo villaggio quindi una cosa molto bella, sei sgomberi passando manituana, anche stato sgomberato, rioccupato, adesso speriamo durato 2000 anni, cioè il fatto che una ragazza agli Champs-Élysées, la zona liberata delle Vallette, che legge sgomberati, no, in una panchina un libro, fa un'attività monastica. Appendino ancora prima che si alleasse con la Lega, ti leggeva lo, cioè, schiavo non è o lo leggeva, no, certo, certo. Ce l'avevano già addosso. Invece questa dimensione benedettina sta finendo, negativa, perché il testo adesso sta diventando in tanti aspetti una cosa in cui entri adesso più che mai su WhatsApp e ovviamente essendo un gesuita e tirando tutto da parte sua ha detto sta diventando una lettura ignaziana del testo, ma questi sono i gesuiti. Però in questa trasformazione molto forte e con tanti rischi, secondo me la battaglia per quell'esperienza, quell'affinamento dell'ascolto, che è l'attività critica, secondo me va difesa alla cavalleria, e dove lei è di per sé un atto politico, è un atto io e aveva fatto venire prima, anche cioè, anche io sono convinto che De Magistris che diceva che le esperienze letterarie più importanti della mia vita non avevano magari in sé un appellativo etico, morale o sociale, ma come quando Ricci dice che quando ti guardi il torso di Apollo, il torso di Apollo ti dice cambia la tua vita, molto diverso, è in sé un'ingiunzione da quello che quali siano poi le declinazioni di questo dipende dalla tua disponibilità a febbraio farti portare dove 2018 mai andato. Si disse sempre già Lewis che diceva il prossimo obiettivo la letteratura, ma secondo me anche la critica appunto è, dice, molti lettori chiedono allo scrittore di mettersi dietro sul sellino della motocicletta o di andare dove tu da solo già vorresti andare a fare il tuo pittino, mentre invece la grande letteratura dovrebbe portarti dove da solo non saresti mai andato adesso con loro, cioè se tu riesci effettivamente ad autogestirti, riesci a dare l'idea che loro non servono a niente, esatto, che non sono necessari, anzi sono dannosi, sulle diverse forme artistiche, dannosi, certamente dannosi, e quindi bisogna stroncare tutte queste esperienze di qualunque colore sia il potere, e la letteratura dovrebbe avere, anche se hai votato per i 5 Stelle, il suo ruolo, il suo spazio che non sempre coincide con gli altri. Questo non vuol dire, voti, purtroppo c'è un fraintendimento, cioè, generale che viene dalla, a volte dalla comprensione letterale di quello che si dice, no? Viene sempre meno la e capacità di immaginare, di astrarre è stata notevole, e di capire, no? Che il linguaggio che usiamo è un sgomberato compromesso, è come al solito prevalentemente l'area anarchica, però anche qualcun altro ci ha, non vuol dire che per esempio sono una grande fruitrice di fumetti, di questa repressione dura di autogestione dell'azione diretta. Io credo che Andrea Pazienza abbia fatto tanto bene in generale all'Italia, no? Più questi di tanti scrittori, garantisti, ma tutti in un mondo diverso, nella lotta, ecco, riconoscere, teste, e riconoscere queste soglie fra un mondo e un altro, certo. Per riconoscere che guardarsi Werner Herzog può influenzare quello che poi scriverai poeticamente come fra pensiero, però, azione, Werner Herzog è un po' il principio che ha delle di Felix, era solo perché siccome ho sempre questa paura dove si possono trovare la paura della fruizione letteraria di quello che si dice, no? E perché questa cosa mi è stata fatta notare molte volte. Adesso sta giusto iniziando il processo per lo sgombero del 2017, che è avvenuto il 13/12 non è poesia 2017, che suona ACAB, combinazione, guarda che caso strano, delle volte sono due cose diverse, mentre invece la rioccupazione, ironia del potere, Fenix, che l'abbiamo fatta nella casetta, linguaggi di fronte, diversi, che già ed è banale la differenza, tra l'altro secondo me è più difficile quasi tra un'opera d'arte visiva e una poesia che non tra una poesia e una canzone. Questa qui è durata ancora meno, è stata sgomberata poi nella poesia c'è il ritmo, primo giorno la lingua, sono due cose diverse, del 2000, ecco, riappropriarci 18, di queste soglie. Quindi penso adesso sia già vediamo, sviluppare se stiamo cercando altre destinazioni. Per un mondo per il momento, dove se vuoi tutto trovare, quanto non si eguaglia, Felix, tanto la poesia strada, gira nell'aria, perché no, nelle piazze, nei momenti di manifestazione, batti il muso in quello nei presidi, qui, ogni tanto batti il muso esempio, alla forma, qui alla polveriera. Oppure vai al Barocchio, dove c'è un po' il deposito moda, della cartaceo. E no? Okay. Una cosa invece sul... Io mi auguro invece che la critica resista o continui a esistere. Penso che cambierà. Sociali, asociali, tante bella cose vita, cambiano, i social, cioè cambiano il modo il meglio di sé, e non si paga, non si vedono soldi. Di rendere fruibili le cose. Mi sembra di, che tra le persone che crescono ora recuperare dei ci libri, sia di nuovo, almeno in alcuni, una sete. Di, non dico di maestri, ma di guide, no? E anche perfetto, di grazie, sapere grazie che il buon maestro, grazie a voi, il nostro buon maestro sarà un libro, non è quello che ti chiede di imitarlo, ma che vuole che tu percorra la tua strada in qualche maniera sciolto e libero. E una cosa sul fatto di essere solo lettore. Come chi scrive penso che a un certo punto invidi profondamente, però su questo siamo d'accordo, è una categoria che riconosciamo, perché chi scrive ruba, no? Perché chi scrive è un ladro di professione, c'è sempre, cioè, chi ti spiega il fatto di cercare la sempre continuamente una serie di testi, di spunti, di realtà da rubare e inglobare nelle tue, un'arte ermetica, nel senso che viene dal principe dei ladri, da Hermes. E la critica non fa, ecco, il valore della critica è questo, la critica, il critico puro, se c'è, è il migliore dei lettori, perché entra in un altro mondo, in qualche maniera poi trovando il suo. Sociale, politico, allora io preferisco di gran lunga la parola politico alla parola sociale, perché per me la politica è la vita attiva di Hannah Arendt, cioè non è altro. E la politica non è lo show che vediamo, ahimè, tutti i giorni, ma è il nostro modo di stare nell'urbe e nel mondo, e tutto mira a quello. Cioè, ecco, io credo che la più grande aspirazione dell'essere umano è la vita politica, dell'essere umano che sta nella società. La politica te la trasmette la buona letteratura. Se la buona letteratura parla, faccio un esempio, della situazione contemporanea politica italiana, della lotta sul lavoro, bene, ma se, e prendo un esempio veramente minimo, stando nel fantasy, se sono le lettere di Tolkien ai figli, cioè un libro che non doveva essere tale, perché Tolkien non l'ha scritto come libro, l'ha scritto per i suoi figli, erano le lettere di Babbo Natale. E guardate che, andandoci senza pregiudizi, è una storia che mi piace raccontare, si scopre che Tolkien ha fatto passare ai suoi figli, attraverso le lettere del Natale, il messaggio della guerra, perché erano nel pieno della guerra mentre lui scriveva queste lettere, e la guerra c'era anche a casa di Babbo Natale, fa ridere, ma questa cosa è seria, salvaguardando la loro speranza. In un libro che non doveva essere un libro, cioè per noi è un libro perché i figli l'hanno pubblicato. Allora, quello è il super fantasy, no? Stai raccontando la fanfola, la storiellina di Babbo Natale ai tuoi bambini, così sono felice e ricevo ogni regali. Cosa fa la grande mente? E lui era una grande mente, forse non sempre condivisibile, ma comunque una grande mente. Porta la speranza nella disperazione. nella terra di Babbo Natale da raccontare ai bambini di 4 anni. Quanti piani di lettura apre questa cosa? E ho volutamente preso questo esempio qui, non un esempio di alta letteratura, ma di quello che nemmeno doveva diventare letteratura. Ecco, questa è una domanda che ci dobbiamo fare. Non aderire al testo per quello che è, oh, mi ci ritrovo, no. Che cosa mi fa pensare questo testo? E questo è il ruolo dei critici, per questo io mi auguro che invece continuino a esserci. Bon, abbiamo già sforato, ma non sarebbe una tavola rotonda se non ci fossero domande. È anche apparso un grande critico sullo sfondo che fa finta di niente grazie a una barba posticcia. Crede di non venire riconosciuto, ma se qualcuno ha degli interventi, sì, naturalmente gli ospiti sono qua per rispondere o per lanciare suggestioni. C'è qualche domanda? Se non ci sono domande, avete fame? Allora io ringrazio Raffaello Palumbo Mosca, Edoardo Rialti, Francesca Matteoni, Gianluigi Simonetti. Vi invito ad acquistare i loro libri e a farlo qui al banchetto della Cité e non su Amazon dopo. Fresco di stampa, La realtà rappresentata, antologia della critica sulla forma romanzo 2000-2016, a cura di Raffaello Palumbo Mosca. La letteratura circostante di Gianluigi Simonetti, Il Mulino, e In absenzia, ma comunque un grandissimo libro, Biologia della letteratura di Alberto Casadei, Il saggiatore. Grazie a tutti e grazie al Festival della letteratura sociale che dopo cena continua con lo Sgargabonzi.